Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, naturalmente buon anno. Per cominciare bene l'anno vi propongo due libri sulla bellezza, sono di due noti storici e critici d'arte. Il primo è un libro sulla bellezza dell'Italia, l'ha scritto Vittorio Sgarbi, si intitola L'Italia delle meraviglie, una cartografia del cuore, pubblicato da Bompiani, 360 pagine, 20 euro. Questo di Sgarbi è un viaggio in un'Italia, come la definisce lui, non obbligatoria, non frequentata, non ricercata. Un'Italia segreta, insomma, capace di regalare meraviglie e soprattutto bisognosa di essere salvata dalla tenacia infaticabile, come la chiama sempre Sgarbi, leggo qui dal suo libro, di privati amministratori che si sono accaniti per distruggere, rovinare, aggredire, sfregiare, torturare l'Italia, che tuttavia resiste in vasti spazi remoti e incontaminati di paesaggio. E lì, aggiunge Sgarbi, allora, per non stare fermi, i vandali impiantano migliaia di pale eoliche. E poi l'autore se la prende con gli squalificati architetti arredatori, del tutto privi di sensibilità, innamorati delle proprie masturbazioni, intese come movimenti della mano per disegnare fioriere, fontane, panchine, lampioni e altri orrori usciti da fantasie turbate. E qui nel libro troviamo il lungo catalogo di queste meraviglie italiane che hanno bisogno appunto di essere messe in salvo, che vengono descritte con la capacità che ben conosciamo di Sgarbi di trasmettere emozioni e passione. Naturalmente sarebbe complicato scegliere qualche brano, qualche esempio di questo itinerario del cuore di Sgarbi, e allora, come atto di omaggio a una terra recentemente martoriata, vi propongo queste righe assai eloquenti sull'Abruzzo terremotato e sugli sforzi da fare per ricostruirlo bene. Attraversando spettrali rovine di chiese, di interi borghi, di edifici rurali, ci si rende conto di come la tradizione architettonica abruzzese sia legata a un mondo pastorale e contadino che è tanto povero quanto vero. Nell'emergenza è necessario ristabilire un tetto agli sfollati, eventualmente anche ricostruire edifici anonimi, come periferie urbane. Ma negli anni che seguiranno bisogna evitare di ripetere l'errore compiuto nella Valle del Belice, in Sicilia, in paesi come Salemi, dove io sono sindaco, Gibellina, Poggio Reale o Santa Margherita di Belice. Qui necessità pratiche e deliri di architetti hanno imposto soluzioni irrazionali creando città fantasma. Leggi sbagliate hanno consentito demolizioni per ricostruzioni con pretestuose norme antisismiche. Il risultato è che nel Belice, dopo 40 anni, il terremoto non è finito. Ancora si abbattono edifici per ottenere finanziamenti e costruire orrori. Edifici abbandonati si alternano così ad altri ricostruiti dalle fondamenta con un effetto di degrado e di incompiutezza insostenibili. A Poggio Reale, la città nuova è talmente estranea nella sua caricaturale ispirazione col barocco romano che i cittadini ti indirizzano verso la città abbandonata in rovina, oltre e dopo i danni del terremoto. Non so se sarà possibile ricostruire Castelnuovo, Onna, Paganica, ma so che gli edifici monumentali saranno sicuramente ripristinati e l'edilizia minore, considerata vecchia, spazzata via. Eppure, rispetto al modello del Belice, una soluzione ci sarebbe. Tra i luoghi colpiti dal terremoto c'è Santo Stefano di Sessanio, uno dei borghi più belli d'Italia, e che negli ultimi 5 anni era stato sottoposto da Daniele Kilgren e dall'architetto Lelio Di Zio a un recupero integrale di straordinaria saggezza, ripristinando case e palazzi con le cubature, i materiali, le tecniche originali, pur provvedendo a una tecnologia sofisticata e antisismica. Santo Stefano ha sopportato egregiamente l'onda sismica, è rimasta intatta, mentre è crollata soltanto la torre civica. Come è avvenuto per Santo Stefano, è necessario utilizzare le nuove tecnologie per ricostruire e rendere sicure le vecchie abitazioni e immaginare un ritorno degli sfollati in tutti i piccoli borghi abruzzesi, senza lasciarli in abbandono e senza sfigurarli. L'edilizia minore a Navelli, a San Pio delle Camere, a Torni in Parte, è così preziosa che richiede più attenzione e amore delle architetture monumentali. L'altro libro è quello di Flavio Caroli, Il volto e l'anima della natura, è pubblicato da Mondadori, 116 pagine, 17,50 euro. Questo invece è un saggio sul modo in cui l'arte, soprattutto la pittura, ha raccontato e racconta la natura. una cosa che l'arte fa soltanto da 1000 anni, ci spiega Caroli, sostanzialmente dall'arte romana, dalla quale infatti prende avvio il saggio di Caroli. È stata proprio l'arte romana infatti che ci ha lasciato le prime tracce di raffigurazioni del paesaggio. Tra l'altro, ricordo a questo proposito che chiude il 17 gennaio la mostra in corso a Roma alle Scuderie del Quirinale Roma, la pittura di un impero, curata da Eugenio La Rocca, Serena Ensoli, Stefano Tortorella, Massimiliano Papini, col catalogo di Schirà. Ma questo di Caroli non è un libro sul paesaggio in pittura. Il disegno è più ambizioso, perché attraverso questo viaggio Caroli vuole spiegare come l'uomo, attraverso la rappresentazione della natura, rappresenta se stesso, e quindi testimonia appunto questo continuo, lungo, imperterrito viaggio dell'uomo intorno a se stesso, che è poi il rapporto fondamentale con l'arte. Ma sentiamo su questo l'autore. Buongiorno Flavio Caroli. Buongiorno a lei. Professor Caroli, lei parla nel suo libro della raffigurazione della natura come una tappa del cammino introspettivo dell'uomo. Che cosa ha scoperto l'uomo in questo cammino? Ha scoperto che il senso della propria vita, oltre che in se stesso e nella propria immagine. Io per tutta la vita mi sono occupato dell'immagine dell'uomo, la mostra L'anima e il volto, della quale peraltro lei sa qualcosa, credo. Dopodiché però mi sono reso conto che l'uomo ha proiettato i propri sentimenti e la propria immagine anche sulla natura. Di questo molto, ma molto più autorevolmente di me, si era reso conto anche Leonardo da Vinci, che naturalmente sul tema del volto diceva: farai le figure in tale atto il quale rappresenti ciò che l'uomo ha nel proprio interno, altrimenti la tua arte non sarà laudabile. Dopodiché Leonardo ha dedicato tutto a questa proiezione a rappresentare le forme della natura. Questo l'uomo ha scoperto tempo per tempo. Però lei parla anche nel suo libro di un senso del tragico come uno dei temi fondanti di questo libro. In che senso? Assolutamente. Io penso che siano due fondamentalmente i primari che hanno guidato il pensiero in figura occidentale. Uno, l'uso della ragione, insomma, ne è esempio l'invenzione della prospettiva, Piero della Francesca e tanti altri capitoli dell'arte occidentale. E poi il senso del tragico. Beh, il senso del tragico comincia già a vedersi nella pittura romana e poi continua a tornare nell'arte moderna. Pensi il Cinquecento, Lorenzo Lotto è già entrato in quest'idea del senso del tragico, e naturalmente il grande momento in cui è vissuto il senso del tragico è il romanticismo, che infatti ha inventato la formula paesaggio stato d'animo. Insomma, quando noi guardiamo Friedrich o Turner comprendiamo che per l'uomo la natura può essere anche nemica o matrigna, come diceva infatti Leopardi, perfetto contemporaneo di Friedrich. Ecco, a proposito di romanticismo, lei lo descrive così: come un periodo nel quale emerge lo smarrimento di un uomo solo nell'universo, privato di qualsivoglia garanzia trascendente o ideologica. Sembra di leggere dell'uomo di oggi. Abbiamo fatto tanta strada per trovarci al punto di 200 anni fa. Purtroppo così sono andate le cose, se non che l'uomo ha poi, il problema del divino e della natura in quanto emanazione di Dio è diventato un grande problema privato. Infatti, per esempio, nel quadro di Friedrich che io riproduco si vede un paesaggio, montagne che si perdono all'infinito e in primo piano un crocifisso. Ecco, un pittore solo 40 anni prima l'avrebbe sentito alle proprie spalle come portatore di certezza e verità. Per Friedrich è un'invocazione, gli inglesi direbbero un wishful thinking, insomma una speranza, ecco, è la grande speranza di salvezza dell'umanità. Professor Caroli, in questo periodo c'è in corso a Milano una grande mostra sul periodo d'oro dell'arte giapponese. Che cosa emerge facendo un confronto con l'arte orientale? Ecco, questo, la ringrazio di questa domanda, perché è proprio fondamentale, insomma, il modo con cui l'arte cinese e giapponese, con tutti i loro rapporti interni che adesso non affrontiamo, hanno avuto un rapporto profondissimamente, di quasi opposto, insomma, a quello che ha avuto l'uomo d'Occidente con la natura, perché il pensiero cinese, sia nell'accezione buddista che nell'accezione taoista, e il pensiero giapponese nell'accezione shintoista, hanno sentito l'uomo come parte della natura. C'è un rapporto empatetico dell'uomo con la natura, l'uomo non è che una parte, insomma c'è un respiro unico dell'uomo e della natura, e invece l'uomo d'Occidente l'ha sentita come avversa, probabilmente in certi momenti anche nemica, tant'è che non l'ha rappresentata per più di 1000 anni, fino a Ambrogio Lorenzetti nel 300, ed è proprio su questa lontananza, iato fra l'uomo e la natura, che sono nati quei due principi del tragico e della ragione, che poi hanno guidato il pensiero occidentale. Insomma, c'è la differenza alla fine, guardi, circa 2500 anni fa sono nate due montagne, la montagna socratica, Socrate insomma, che ha fondato il pensiero occidentale, e la montagna cinese, cioè Buddha, che ha fondato quella certa visione del mondo. Da allora le montagne hanno cominciato poco alla volta a dialogare, ma insomma le radici profonde sono originariamente molto diverse. Il suo libro si conclude con un capitolo sul cinema, come mai non parla invece di fotografia? Questo in verità, guardi, è anche un problema molto tecnico, perché io avevo circa 55-56 immagini a disposizione, ma si immagini, la fotografia è importantissima. Guardi, mi viene subito in mente un nome, che è Ansel Adams, del quale vidi una mostra tanti anni fa a Londra, che è proprio l'immagine, ecco, del romanticismo della fotografia nel paesaggio moderno. Anzi, ma sai, d'altronde, capisce, fotografia, cinema, insomma, siamo sempre lì. Questa è la grande eredità che deriva dalla pittura, appunto, nel rapporto con la natura. Ecco. Vedremo la prossima edizione. Grazie a Flavio Caroli, autore di Il volto e l'anima della natura. Grazie mille a lei. Buona domenica. Il confettino. Anche i più giovani si possono accostare all'arte col libro di Stefano Zuffi, Il mondo dipinto. 22 capolavori di grandi maestri raccontano la loro storia. Pubblicato da Feltrinelli Kids, 224 pagine, 15 euro. Anche Zuffi è un noto storico dell'arte e ci fa accostare, o meglio, fa accostare i nostri ragazzi a 22 opere appunto straordinarie della storia dell'arte, dalla Cappella degli Scrovegni di Giotto fino al quadro con macchia rossa di Kandinsky, che naturalmente sono qui riprodotte, queste opere, e che affascinano anche i genitori per i particolari che Zuffi è in grado di offrire per farci davvero scoprire o riscoprire autentici capisaldi dell'arte occidentale. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Dopo l'arte passiamo alla storia. Si avvicina la data del 2011, quando ricorderemo il 150enario dell'Unità d'Italia. Quest'anno ricorderemo il 150enario della Spedizione dei Mille, l'anno scorso il 150enario della Seconda Guerra d'Indipendenza. Questo, in fondo, il 1859 fu un anno di cerniera verso appunto il raggiungimento dell'unità nazionale. Per questo vi segnalo il libro di Arrigo Petacco, Il Regno del Nord, 1859, il sogno di Cavour infranto da Garibaldi, è pubblicato da Mondadori, 178 pagine, 19 euro. L'autore è un noto giornalista, autore di libri storici, che affronta qui un tema che appunto verrà a lungo dibattuto in questi mesi, fino appunto alla celebrazione del 150enario dell'Unità d'Italia. Come si è fatta davvero l'Unità d'Italia? Nel 1858, spiega Petacco, Cavour lavorava a un'Italia diversa da quella che venne fuori. Anzi, lui pensava a tre Italie da riunire in una lega, quella del nord sotto i Savoia, quella del sud sotto i Borboni e un'Italia del centro da decidere a chi avrebbe dovuto essere affidata. Ma il suo disegno sarebbe stato scombussolato appunto dall'intervento di Garibaldi, quello che ricorderemo quest'anno, sotto sotto caldeggiato da Vittorio Emanuele II, che con la spedizione dei Mille avrebbe conquistato e fatto cadere il regno delle due Sicilie. Insomma, siamo al centro proprio delle vicende che saranno rievocate tra molte polemiche, immagine, quest'anno e l'anno prossimo. Ma sentiamo come Petacco giudica Cavour e la sua prodigiosa capacità di adattarsi alle circostanze e soprattutto di saperne approfittare. A differenza di Mazzini e di Garibaldi, Cavour non era né un condottiero né un dottrinario, ma semplicemente un abilissimo uomo politico dotato di un senso molto acuto nell'individuare tutto ciò che era realisticamente possibile realizzare. La coerenza per lui non era un dogma. Era sempre pronto a cambiare opinione e anche a transigere con i suoi ideali se questo fosse stato necessario per raggiungere il suo scopo. Il timore di essere accusato di opportunismo non lo turbava. D'altra parte, furono proprio l'opportunismo di Cavour, il suo realismo e il suo spirito laico che riuscirono a tradurre in realtà politica quello che per Mazzini era un articolo di fede. Chiuso nel suo ambiente torinese fondamentalmente reazionario, egli ne era sortito come uno strenuo difensore del Parlamento, scandalizzando i benpensanti con il dire che i mazziniani erano meno pericolosi dentro che fuori di esso. Cavour apprezzava il libero conflitto delle idee. Gli consentiva di individuare in che direzione andassero le simpatie popolari. «Sono convinto», sosteneva, «che con un Parlamento si possono fare molte cose che sarebbero impossibili con il potere assoluto». E concludeva con una formula che gli era cara. «Meglio una brutta Camera che una bella anticamera», riferendosi all'anticamera reale, dove i ministri sostavano in attesa degli ordini del re. Da un nuovo regno passiamo a tre grandi imperi del passato, il primo è quello di Roma. E vi propongo quindi il libro di Martin Goodman, Roma e Gerusalemme, lo scontro delle civiltà antiche, pubblicato dalla Terza, 738 pagine, 35 euro, tradotto da Michele Sanpaolo. Goodman è uno studioso britannico, esperto particolarmente di storia ebraica, che ricostruisce questo rapporto difficile fra Roma e Gerusalemme, un rapporto segnato dal trauma per Gerusalemme della distruzione della città da parte dei romani nel 70 d.C., di cui ci lasciò testimonianza Giuseppe nella sua guerra giudaica. Ma perché si giunse a questa frattura così sanguinosa e drammatica? L'ostilità fra Roma e gli ebrei era così accentuata da far esplodere quella violenza che è rimasta poi leggendaria, e Goodman appunto esplora questa questione e ci offre l'opportunità non solo di ricostruire il rapporto tra Roma, tra l'impero di Roma e Gerusalemme, ma di conoscere a fondo le due civiltà e le due società. Questo rapporto, spiega Goodman, non era sulla carta particolarmente conflittuale. Al massimo le abitudini degli ebrei erano considerate, come scrive l'autore, stravaganze giudaiche, tollerate al punto da consentire agli ebrei di seguire la propria religione e di non adorare gli dèi. Naturalmente questa tolleranza aveva degli alti e dei bassi, ma insomma i romani accettavano che gli ebrei mantenessero la loro identità monoteista. E fu anzi proprio questo reato, quello di non adorare gli dèi, che venne imputato ai primi cristiani. E proprio in quanto i cristiani non si identificavano con i giudei, anzi, spiega Goodman, facevano di tutto per distinguersene. Anzi, per questo, spiega l'autore inglese, proprio il cristianesimo, con l'immagine della nuova Gerusalemme, avrebbe contribuito a rafforzare il legame con Roma, che era diventata nel frattempo sede del pontefice. Tuttavia, secondo lo storico, fu proprio l'impegno dei cristiani di attaccare il giudaismo nel suo insieme, come lui stesso scrive, a spiegare l'antisemitismo che da lì in poi si sarebbe sviluppato. Su Israele vi segnalo di Mario Liverani, Oltre la Bibbia, storia antica di Israele, pubblicato dalla Terza, 510 pagine, 22 euro. Questa è la riproposta di un libro del 2003, di cui è autore uno storico dell'Antico Oriente, che vuole affrancare la lettura dello Stato di Israele dalla tradizione biblica e condurla secondo un metodo storico che tenga conto, come scrive, della critica testuale letteraria, degli apporti dell'archeologia e dell'epigrafia e che non abbia paura né di scostarsi dal filo conduttore biblico né di restare in un ambito prettamente storico. Qui non si arriva all'epoca romana, ci arrestiamo infatti sostanzialmente al IV secolo a.C., quando comincia un secondo periodo dello Stato di Israele che si sarebbe appunto concluso con la distruzione del secondo Tempio di Gerusalemme. Nei secoli precedenti lo Stato degli ebrei aveva dato vita a una serie di costruzioni simboliche che identificano e forgiano il popolo di Israele. Sentiamo per esempio dal libro di Liverani che cosa abbia rappresentato per questo popolo il monoteismo, qui confrontato con il politeismo della tradizione babilonese. La questione principale non è tanto quella del numero degli dèi, uno o due o molti, ma della loro tipologia e del rapporto che si stabilisce tra fedele e divinità. Occorre ricordare, sia pur sinteticamente, che il politeismo, strutturato in un pantheon, si forma in parallelo alla cosiddetta rivoluzione urbana, cioè al sorgere di società complesse per diversificazione di competenze lavorative, per accentuata stratificazione socio-economica, per la presenza di un nucleo dirigenziale. Di queste società complesse e di questo nucleo dirigenziale, il pantheon è ipostasi e legittimazione. Ogni dio è preposto a un settore specifico e tutto il pantheon è mantenuto dalle offerte della comunità, proprio come questa mantiene gli specialisti e il gruppo dirigenziale. L'emergere del monoteismo non unifica le varie personalità divine, ma le annulla. Rinuncia alle loro caratterizzazioni distintive per puntare su una caratterizzazione globale del divino, che non può che essere di carattere etico. Siamo di fronte a una vera e propria svolta. Anziché essere ipostasi e giustificazione degli squilibri sociali, dei flussi ineguali di risorse, la religione diviene espressione di valori morali condivisi, punto di riferimento per la distinzione tra bene e male, tra giusto e ingiusto, tra vero e falso. Fino ad allora, la religione era stata gestita dai detentori del potere politico che si proponevano quali mediatori, gli unici legittimati, dei rapporti tra la società umana e la sfera divina. Ora di questa mediazione politica e cerimoniale si può fare a meno. Si cercano canali diretti di collegamento tra l'individuo e la sfera divina. Prova di questa diversa funzione del sacro sta nel fatto che nelle religioni monoteiste la diversificazione di competenze, di soccorsi settoriali, si riproduce nella proliferazione di demoni o di santi, come nel cristianesimo, e che viceversa quelle società che collocarono i valori etici in codici civili o regi, o nel sapere filosofico, come il mondo greco-romano, poterono mantenere in parallelo e per secoli la loro religione tradizionale, il loro pantheon, per gli usi cerimoniali. L'altro grande impero è quello bizantino, che viene descritto nel libro di Eduard Luttwak, La grande strategia dell'impero bizantino, è pubblicato da Rizzoli, 542 pagine, 25 euro, tradotto da Domenico Giusti e Denzo Peru. L'autore è un noto studioso americano di equilibri geostrategici e qui analizza come l'impero di Bisanzio abbia potuto reggere per quasi 1000 anni in una situazione di grandi squilibri e in certe fasi anche di grande debolezza. E infatti, spiega Luttwak, l'impero era dotato di forze minori di quelle dell'impero romano, eppure riuscì a sopravvivere per un lunghissimo periodo. Come spiega l'autore, Bisanzio fu capace di applicare metodo e creatività nell'usare sia la persuasione sia la forza, cioè la strategia in tutti i suoi aspetti, dalla più elevata arte di governo alle tattiche militari in senso stretto. E qui ce lo descrive in questo libro, facendoci penetrare dopo Gerusalemme e Roma nelle pieghe della storia di Costantinopoli, del suo splendido e unico impero, che si fondava su uno straordinario punto di forza, ossia la triplice identità, quella cristiana, quella ellenica, quella romana, che assicurò particolare duttilità, capacità di resistenza e di ripresa nei momenti di crisi peggiore. Sentiamo dal libro di Luttwak un brano che sintetizza l'abilità particolare dell'impero bizantino. Talvolta la forza militare dell'impero fu tale da consentirgli di lanciare offensive che portarono alla conquista di vasti tratti di territorio. La diplomazia allora veniva impiegata soprattutto per strappare concessioni ad altre potenze intimidite dalle vittorie di Bisanzio, o almeno per impedire loro di interferire. Altre volte invece l'esercito e la marina bizantine si rivelarono così deboli e i loro nemici così forti che la sopravvivenza dell'impero era resa possibile solo dagli alleati stranieri, reclutati con successo molto tempo prima o appena in tempo. In più di un'occasione, bande di guerrieri, provenienti da regioni vicine o remote, arrivarono all'improvviso a ristabilire l'equilibrio ed evitare il disastro. Tra questi due estremi, di solito vigeva un equilibrio più bilanciato. L'abilità delle forze militari conferiva potere alla diplomazia, e di rimando l'azione diplomatica basata su buone informazioni amplificava la forza militare. Tutto ciò, insieme a una buona dose di fortuna, era necessario per preservare l'impero romano d'Oriente, che era intrinsecamente meno sicuro dell'impero romano d'Occidente e a cui sopravvisse tanto a lungo. La persuasione di solito veniva al primo posto, ma la forza militare fu sempre uno strumento indispensabile dell'arte di governare bizantina in mancanza della quale il resto non avrebbe funzionato granché. Il mantenimento di una sufficiente forza militare rappresentò pertanto per l'impero una sfida permanente da vincere ogni giorno, anno dopo anno, secolo dopo secolo. Fu realizzato grazie a due pratiche romane che i bizantini furono capaci di conservare a lungo. L'impero occidentale non vi riuscì, anche se talvolta con fatica. La prima era un sistema di raccolta delle imposte assai efficace per l'epoca e che nessuno dei nemici dell'impero era in grado di eguagliare nemmeno lontanamente. Dal punto di vista strategico, la conseguenza più importante della tassazione regolare fu il servizio militare regolare. La maggior parte dei nemici era costretta a sfruttare per la leva tribù, guerrieri volontari, mercenari o talvolta contadini arruolati forzatamente, poi costretti a saccheggiare o a raccogliere avanzi per sfamarsi. I bizantini potevano invece permettersi di tenere in servizio per tutto l'anno soldati e marinai imperiali salariati, anche se disponevano comunque di riservisti a tempo parziale, pronti a essere richiamati. Il servizio militare regolare permise a sua volta la rinascita della seconda fondamentale pratica romana, decaduta nel V secolo, l'addestramento militare sistematico, che comprendeva sia l'istruzione individuale delle nuove reclute, sia le esercitazioni regolari, per provare la tattica e lo schieramento delle truppe. E con questo vi rinnovo gli auguri di buon anno assieme a Vittorio Mussini in redazione e Fabio Contadori in regia. Vi ricordo il nostro appuntamento di domenica prossima, vi auguro buona settimana.